Di pescatore ignobile, esser figlio altre dei, e se costoro in Napoli, visi i primi anni miei, quando un guerriero madre, ay, misera, mi madre, que escribea, diría pase, no te víctima, per te, per me.